Si tratta di un progetto che vuole impaccare in un imballaggio come il bag in box e il Tetra Pak dei vini di alta qualità siciliani per cercare di portare al consumatore finale il miglior rapporto prezzo-qualità, ossia cercare di dare al consumatore finale la possibilità di accedere a un consumo che normalmente è relegato ai vini in bottiglia, con prezzi medio-alti, invece questa volta con prezzi abbordabili tutto l'anno. Il primo sarà il Nero d'Avola insieme al Catarratto, che saranno disponibili tutto l'anno, e poi verranno aggiunti, per offerte stagionali altri vitigni tipo Grillo o piuttosto Inzolia e altri ancora, in modo da dare al consumatore un servizio completo con vini con prodotti con appunto il miglior rapporto prezzo-qualità. Per questo abbiamo legato a questo progetto per il momento Antonello da Messina, che viene coniugato in maniera pop art proprio perché si rivolge a un pubblico e a un consumo nuovo e giovane, La Vergine Annunziata. la Vergine dell'Annunziata. E poi verranno utilizzate altre icone, man mano che crescerà l'offerta dei vini pop Sicilia, come la Venere di Morgantina, piuttosto che il Fauno e altre ancora, per cercare di continuare questa relazione virtuosa tra territorio, capacità produttiva, qualità e storia culturale, in un prodotto che vuole essere in un certo senso la sintesi dello spirito Sicilia.